Voci di piccola impresa. Idee anticrisi di Anna Marino. Benvenuti da Anna Marino a Voci di piccola impresa. Idee anticrisi. Che cosa dicono di noi? A questa domanda risponde la ricerca 3.0, così abbiamo chiamato la nuova frontiera della ricerca di mercato qualitativa e quantitativa, fatta attraversando i nuovi media, dai social network ai siti specializzati di ogni tipo. Ecce Customer, www.eccecustomer.com, è una piattaforma web in grado di fornire ai brand, ai marchi, la capacità di fare un profilo e conoscere meglio i propri fan attivi su Facebook, Twitter, YouTube. Il fondatore Cosimo Palmisano ci dice come ha ribaltato l'indagine qualitativa grazie ai viaggi nella terra delle nuove idee, la Silicon Valley, la sua vita e la geografia del business, che gestisce ora in contatto con varie parti del mondo, pur essendo ritornato nella sua Latina. Allora, l'elemento che ha fatto accendere la lampadina è stato, io lavoravo in Italia come consulente in Fiat e facevo analisi per la gestione delle relazioni con i clienti all'interno del gruppo Fiat, e mi ero accorto che i social network non erano solamente un giochino in cui comunicare, ma in realtà erano un'invenzione paragonabile a quella degli altri mezzi di comunicazione, e quindi secondo me i social network potevano diventare uno strumento alimentante per le aziende. Quindi a quel punto ho lasciato il mio lavoro a tempo indeterminato in Italia, sono partito per gli Stati Uniti in Silicon Valley per andare a vedere direttamente quello che accadeva nell'ambito social network. Ho scoperto che c'erano dei competitor che stavano facendo delle attività simili a quella che avevo in mente io e che avevo razionalizzato su un business plan. E lì ho trovato un business partner italiano che stava aprendo l'azienda in America e mi ha convinto a tornare in Italia e a sviluppare l'idea e lanciarla sul mercato. Che età aveva e quali sono stati ovviamente i tempi di realizzazione dall'idea fino alle prime attività? Allora, l'idea è nata nel 2009, quindi ho scritto la prima pagina del business plan, l'ho scritta a metà 2009. Poi nel 2010 sono stato in Silicon Valley, sono tornato in Italia a ottobre. Ho cominciato a sviluppare la piattaforma con due sviluppatori in Italia e a marzo 2011 avevo già i primi tre clienti. Qual è stato il motivo che ha fatto accorciare così tanto i tempi a chi ha visto in voi una possibile realizzazione della vostra idea, una possibile attività di business? Certo, quando sono arrivato in Silicon Valley la prima cosa che ho capito è che era il mercato dei social network andava molto più veloce di qualsiasi altro mercato, quindi avevo necessità non tanto di denari per far partire l'idea, quanto piuttosto di un partner tecnologico, quindi qualcuno che mi fornisse le basi per poter costruire quello che avevo in mente. Quindi in California ho incontrato un imprenditore italiano che ha messo a disposizione la piattaforma tecnologica ed è quello che mi ha dato la possibilità di accelerare il processo. Ecco, l'utilizzo dei social network che ormai sono conosciuti, voi lo avete declinato in un modo un po' particolare. Qual è stato un esempio di vostra attività e chi sono stati proprio i primi clienti che hanno visto in voi qualcosa di speciale? I nostri primi tre clienti sono stati Unicef, Alpitour e Telecom. Tutti e tre avevano, diciamo, obiettivi diversi dal punto di vista del social network. Chi aveva un obiettivo più di comunicazione, chi invece aveva l'obiettivo di dover capire un po' meglio quello che i viaggiatori stavano facendo in un periodo un po' caotico all'interno del turismo, del periodo, diciamo, tutto quello che avveniva nel periodo della primavera araba, e dall'altro lato c'era un'azienda che invece aveva necessità di capire come far scalare il fundraising, quindi raccogliere fondi per una no profit come appunto Unicef. Quindi quello che hanno visto in noi è stata la capacità di monitorare e comprendere un fenomeno in quel momento ancora non misurabile, quindi loro hanno visto in Ecce la possibilità di poter misurare e quindi migliorare tutte le attività che stavano facendo all'interno dei social network. Lo sviluppo di questa idea comunque ha avuto dei binari che hanno aiutato la corsa ad andare più veloce, ma ha avuto anche degli ostacoli. Come lo sviluppo e che cosa vi ha frenato o cosa vi ha, diciamo, ostacolato? Allora, lo sviluppo ci ha aiutato molto perché abbiamo creato una soluzione molto di alto livello, a livello corporate, quindi mirata e targetizzata per aziende grandi. Infatti nel nostro portafoglio abbiamo solo multinazionali. Questo posizionamento sul mercato all'inizio ci ha un po' penalizzato, perché puoi immaginare quanto possa essere difficile per una startup diventare fornitrice di una multinazionale. Ci sono tutta una serie di vincoli che le multinazionali hanno nella scelta dei fornitori. Per farci conoscere siamo andati one to one dai manager che potevano essere interessati, convincendoli che la nostra startup era innovativa, che i nostri servizi erano ad alto valore aggiunto, e quindi questo ci ha aiutato anche a superare certi ostacoli per diventare fornitori. In generale comunque abbiamo anche partecipato ad eventi come il Working Capital organizzato da Telecom o il TR35 organizzato dall'MIT di Boston. Abbiamo fatto delle presentazioni relativamente al premio Marzotto, quindi non abbiamo partecipato attivamente, ma abbiamo dato visibilità al brand e alla startup attraverso una serie di eventi che tendono a sponsorizzare le startup italiane. In tempi di social network, comunque, la presenza reale, non virtuale, è ancora importante. Assolutamente, la richiesta fondamentale che ci fanno le aziende è quella, ed è il nostro grosso valore aggiunto, è quella di prendere le informazioni che sono dislocate all'interno del social e portarle all'interno dell'azienda, farle diventare un asset fondamentale per tutte le attività di sales, di communication, di marketing. Quindi l'obiettivo è rendere monetizzabile l'informazione sociale che è sparsa nel web e farla diventare concreta. Spesso ci chiedono di trovare delle soluzioni che mirano a portare il fan o il follower in eventi reali, quindi portarlo direttamente a quello che era il vecchio business, quindi dal virtuale al reale. Voi vi sentite un eroe o eroi aver messo in piedi queste idee anticrisi? Beh, noi ci sentiamo delle persone, parlo al plurale perché chiaramente la mia è l'idea, poi ho tante persone che mi stanno accompagnando in questo percorso. Noi sentiamo che in questi momenti di crisi, è proprio in questi momenti di crisi che bisogna cercare strade alternative. Piangersi addosso serve a poco. In questi momenti in cui c'è tanta crisi, le aziende sono disposte a investire anche in innovazioni fatte da start-up al fine di risalire la china, perché per tutti c'è crisi, sia per chi lavora, sia che per chi ha un'azienda, sia che per chi gestisce una multinazionale. Il concetto dell'angry and foolish, speso da Steve Jobs, non deve essere rivolto solo ai piccoli imprenditori, deve essere rivolto anche ai grandi manager di grandi aziende che devono cominciare ad essere angry e quindi decidere di investire pochi denari rispetto a quelli che potrebbero investire con una multinazionale, e foolish perché chiaramente comporta un rischio investire in startup, in innovazioni fatte da startup, ma di fatto l'innovazione è nelle startup, non può essere mai nelle grandi multinazionali. Ecco l'esempio di una piccola impresa costruita da imprenditori con le proprie mani e competenze su un'idea innovativa. Reputation Manager, www.reputazioneonline.it, di Andrea Barchiesi e Paolo Mosconi, ha inventato l'ingegneria reputazionale e l'immagine dell'azienda, di una persona o di un tema che si ottiene analizzando informazioni pubbliche e online a loro carico. Paolo Mosconi spiega come si calcola la reputazione, anche in cifre percentuali. Molto spesso, soprattutto quando parliamo di persone, non c'è immagine, non c'è idea su internet, per cui soprattutto relativamente a professionisti che non hanno altri mezzi di promozione, oggi come oggi, se non internet, però c'è una mancanza totale di informazioni e soprattutto di informazioni professionali. L'innovazione è stata prima di tutto quella nel momento in cui il web 2.0, i social media, i social network hanno preso piede, quella di ascoltarli non solo per conto delle aziende in chiave di marketing, ma anche per conto delle persone per capire che cosa si dice di loro e soprattutto per fare in modo che queste stesse persone possano costruirsi quella che noi chiamiamo un'immagine digitale. Ecco, questa seduzione virtuale, diciamo, che c'è anche sul web, il fatto che diventi vetrina o diventi, come dire, più attraente una persona o meno attraente grazie al mondo virtuale, che cosa, diciamo, ha avuto come ostacolo per essere realizzata e quali invece sono stati le cose o gli enti oppure, diciamo, le persone o anche le organizzazioni che vi hanno aiutato per realizzarla? Quanto tempo è passato dal momento in cui l'avete pensata al momento in cui l'avete messa in piedi? Noi siamo partiti a lavorare su queste tematiche praticamente da subito. ActValue nasce nel 2004. Nel 2005 abbiamo cominciato a lavorare sul marketing web e dei social network quando non esistevano ancora questi termini, almeno in Italia. Oggi, dal punto di vista almeno delle aziende modernamente organizzate, il fatto che bisogna essere presenti in chiave commerciale, in chiave di marketing, ma anche in chiave di customer service sul web è un dato di fatto. E questo si sta spostando sempre più da una parte verso le piccole aziende e dall'altra verso le persone, i professionisti, comunque gente che ha un'immagine, persone di spettacolo, politici, giornalisti. Che cosa ci ha aiutato? Beh, ci ha aiutato il mondo di internet, la tecnologia che è evoluta, che dall'America tutte queste belle nuove cose sono arrivate anche in Europa e in Italia. Che cosa non ci ha aiutato? Beh, a parte l'uso del cellulare, gli italiani non sono sicuramente un popolo tecnologicamente avanzato, sono sempre indietro, guardano con difficoltà alle novità. Qual è la cosa che vi ha aiutato di più, che, non so, i soldi, una persona, qualcuno che o qualche ente che vi ha spinto maggiormente, che potrebbe essere anche utile come segnalazione a chi come vuoi vuole mettere in piedi un'azienda? Siamo stati noi, con la nostra idea, con la nostra forza e con la nostra perseveranza. E qualcuno all'interno della compagine dei soci, che in particolare ha spinto, ha creduto in questa cosa e la porta avanti tutti i giorni, combattendo con le unghie e con i denti. Quali professionalità o esperienze avevate proprio per fare da soli? Noi avevamo professionalità e esperienze di tipo tecnologico e consulenziale. Noi siamo partiti nel 2004 in 8 persone, adesso fine 2011, inizio del 2012 siamo all'incirca 30 persone. Consigli per i viaggiatori come voi? Le soddisfazioni ci sono sicuramente, perché quello che fai lo fai per te. D'altra parte le difficoltà sono tante, sono di più di quelle che ti aspetti. Il consiglio è non guardare sempre solo avanti, ogni tanto guardare anche indietro e dire: beh, sono riuscito ad arrivare fino a qui, quindi qualche cosa ho fatto veramente. Avete ascoltato Voci di piccola impresa, idee anticrisi. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Un saluto e a sabato prossimo.